We have had some technical problems. I'm ready to go. Hit it! 2 0 2 4 2024. In questa puntata di 2024 parleremo di motori di ricerca e sarà con noi in studio Stefano Maruzzi, il country manager di Google Italia. Abbiamo fatto anche una ricerca per capire come gli utenti utilizzano Google. Ma a Google viene attribuita una percezione di imparzialità ed è frutto stesso di internet e della libertà che si trova in rete. Vodafone lancia a Roma e Milano i servizi mobili in terza generazione con tecnologia HSPA a 43 megabits al secondo. Serviranno per navigare in internet più velocemente con smartphone, tablet o computer con chiavetta. Io credo che l'Europa rimanga avanti da questo punto di vista e l'Italia in particolar modo rimanga avanti rispetto a tanti altri paesi europei per quanto riguarda la larga banda mobile, la larga banda radio. E poi la nostra rubrica dedicata ai videogiochi e lo spazio in collaborazione con National Geographic. Oggi parleremo di una mega struttura alta 145 metri dove si scommette e si gioca alla roulette. Qualcuno diceva che era un'impresa impossibile, ma ora il Venetian è una realtà. Il Venetian Las Vegas è uno dei palazzi e uno dei casinò più grandi del mondo. 2024 2024 di Enrico Pagliarini. Sono le 15:34 minuti, bentornati a 2024. Alcuni questa settimana mi hanno detto: dovresti dire in quale fuso orario ti trovi, visto che ascoltiamo la radio anche via internet. Allora salutiamo anche chi ci ascolta via internet. Questo è 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Cerchiamo anche oggi di spiegarvi come la tecnologia ci ha cambiato la vita e ci cambia la vita. Come avete sentito dal nostro sommario, oggi ci occupiamo di Google, un tema molto vasto perché Google sta facendo parecchie cose. Già con noi nei nostri studi Stefano Maruzzi, che tra poco incontreremo. Allora vi invito a chiamarci al nostro numero verde 800 24 00 24, se volete inviarci un sms per le vostre domande, 349 238 6666. Ma come dico spesso, preferiamo sentire la vostra voce in diretta. Tra poco notizie della settimana e anche i nostri approfondimenti. Tra poco parleremo di Vodafone, che ha lanciato una serie di nuovi servizi. Adesso, come sempre, lo spazio dedicato al gioco. Vi regaliamo proprio un videogioco e naturalmente anche parliamo di videogames con Stefano Gallarini. Video game. Buon weekend a tutti e cominciamo come sempre la puntata con la soluzione del gioco della settimana scorsa. Per sconfiggere il mostro di fine livello dovete necessariamente superare i primi due livelli. Ed ecco le risposte. Livello 1. Lo usa Cupido. La risposta era arco. Livello 2. Una luce improvvisa e intensa. La risposta era baleno. Mettendo insieme le due parole, come si fa in una charada, si ottiene arcobaleno. Il mostro di fine livello chiedeva: mostro di fine livello, qual è quello al centro? La risposta era verde, ovvero il colore al centro dell'arcobaleno. Complimenti a Sara, dalla provincia di Parma, che ha trovato la soluzione e che riceverà la confezione speciale di Black Ops, anche se devo dire che il 90% delle vostre risposte erano esatte. Veniamo ora al gioco di questa settimana. Come sempre, dovete risolvere i due livelli per sconfiggere il mostro di fine livello e avere la soluzione da inviare a videogiochi@radio24.it. In premio il sensore Kinect e due giochi Microsoft per Xbox 360. Livello 1. Insieme a qualcuno. Per il videogioco di cui parliamo oggi, dobbiamo partire da una rivoluzione. Se vuoi, invita i tuoi amici. Ma spiega loro che non passeranno molto tempo sul divano. Erano anni che Microsoft lavorava al progetto che oggi si chiama Kinect. Forse ispirati dal movimento delle mani di Tom Cruise nel film Minority Report, che con semplici gesti interagiva con le immagini proiettate su di uno schermo trasparente, i ricercatori di 3DV e di PrimeSense, finanziati da Microsoft, misero a punto un hardware con telecamera denominato Project Natal. Solo nel novembre di quest'anno l'hardware è stato perfezionato e commercializzato con il nome di Kinect. Miracoli della scienza moderna! Sì, quasi un vero miracolo. Il sensore Kinect, diversamente dai dispositivi 2D di controllo basati su telecamera convenzionale, esegue una mappatura completa in tre dimensioni dei movimenti del corpo, reagendo ai comandi gestuali e alle differenze di intonazione della voce, e questo permette di trasformare chiunque nel controller di ogni videogioco. Kinect è dotato di una telecamera, di un doppio sensore di profondità a raggi infrarossi e di quattro microfoni che sono orientati in direzioni diverse e vengono utilizzati dal sistema per la calibrazione dell'ambiente in cui ci si trova, tenendo conto del modo in cui il suono rimbalza sulle pareti e sui mobili. Così il rumore di fondo e i suoni del gioco vengono eliminati ed è possibile riconoscere correttamente i comandi vocali, anche se in Italia il controllo della voce sarà attivo solo dalla primavera del 2011. Il corpo del sensore Kinect è motorizzato lungo l'asse verticale e segue i movimenti dei giocatori, orientandosi nella posizione migliore per il riconoscimento dei movimenti. All'interno della confezione del sensore Kinect c'è già un gioco, Kinect Adventures, e prima di parlarne veniamo alla seconda parte del nostro gioco. Vi ricordo che per sconfiggere il mostro di fine livello dovete risolvere i primi due livelli, solo così potrete capire la domanda finale, la cui risposta vi permetterà di portare a casa il sensore Kinect, Kinect Adventures e un altro gioco offerti da Microsoft. Livello 2. La spina dorsale dello scafo. Torniamo al nostro gioco, dobbiamo buttarci nell'avventura. Eccoci qua, ora sei nella squadra dell'avventura. Preparati ad affrontare imprese sensazionali. La squadra è composta da gente d'età ed esperienza diversa, ma siamo tutti uniti dalla passione per l'avventura. E voleremo intorno al mondo intero per trovarle. Poiché Kinect, per funzionare, ha bisogno solo del movimento del corpo, delle mani, dei piedi e del volto, un gioco d'avventura dove dovrete muovervi come pazzi è un ottimo inizio per immergersi in questa nuova esperienza. Per superare i livelli, battere gli amici e vincere le sfide degli avventurieri, dovrete saltare ed evitare ostacoli, tappare falle, respingere palloni colorati, muovere un gommone su un fiume velocissimo per rivivere, almeno virtualmente, un'adrenalinica esperienza di rafting. Quei coraggiosi vengono definiti esperti dell'avventura. Quindi eccoti nella squadra dell'avventura. Il gruppo è nato nel 1921, ma sarà ancora in cerca di grandi avventure nel 2921. I nostri membri più abili ed esperti riescono a conquistare le statue viventi. Miracoli della scienza moderna! E miracoli di goffaggine! Anche se attualmente il sensore Kinect funziona solo sulle console Xbox 360, presto verranno rilasciati driver ufficiali perché possano funzionare anche su PC con sistema operativo Windows, anche se su internet ne esistono già per PC, Linux e Mac. E prima di passare alla classifica dei giochi più venduti della settimana, ecco la terza parte del nostro gioco, il mostro di fine livello da sconfiggere con la risposta giusta alla domanda che sto per farvi. Mostro di fine livello. Chi ci abita dentro? Chi invierà la risposta corretta per primo si porterà a casa il sensore Kinect con Kinect Adventures e un altro gioco per Kinect offerti da Microsoft. La risposta a videogiochi@radio24.it. E adesso la classifica. Quinto posto per il gioco di calcio che soddisfa anche i più esigenti, Pro Evolution Soccer 2011. Quarto posto con gli intrighi e l'azione della guerra fredda in Call of Duty Black Ops. Terzo posto per Kinect Adventures con il sensore Kinect. Scende di una posizione e va al secondo posto il gioco di guida fra i più dettagliati di sempre, Gran Turismo 5. E al primo posto sale la voglia di mettersi in forma e di riprendere tono con Wii Fit Plus e Balance Board, esclusivamente per la console Nintendo Wii. Ne parleremo al prossimo sabato da Stefano Gallarini. E dopo i videogiochi alcune notizie della settimana. Partiamo da Vodafone, che ha annunciato l'avvio a Roma e Milano di una copertura con rete mobile capace di funzionare a 43 megabits al secondo, molto veloce. Si tratta di un upgrade della tecnologia HSPA Plus, che è già disponibile in alcune aree d'Italia, anche altri operatori, il cosiddetto 3,5G, forse alcuni avranno visto l'indicazione sul telefonino, sullo smartphone. Però l'avvio commerciale di questa ulteriore evoluzione è previsto da Vodafone in aprile, ma già da questi giorni a Roma e Milano e da marzo in altre 16 città ci saranno alcuni clienti che potranno usare particolari chiavette per navigare a più di 40 megabits. E quindi questo servizio verrà utilizzato al momento solo con notebook o netbook con una chiavetta particolare, non con smartphone o tablets. Si tratta, potremmo dire, di una sorta di anticipazione di una nuova tecnologia di cui abbiamo già parlato più volte a 2024, si chiama LTE o anche 4G. Le prime reti di quarta generazione sono state lanciate in Nord Europa e vi abbiamo raccontato il caso di Stoccolma, ma soprattutto in Asia e Stati Uniti. Visto che per l'Italia si parla di LTE, di questa tecnologia, per il prossimo anno, forse per il 2013, Eleonora Michelli ha chiesto a Paolo Bertoluzzo, che è l'amministratore delegato di Vodafone Italia, se siamo o no in ritardo. No, io direi assolutamente di no. Io credo che nel settore del mobile l'Italia rimanga all'avanguardia. Non ci dimentichiamo che negli Stati Uniti c'era un piccolo problema, che non c'era la terza generazione, così come non c'era in Asia, o meglio, c'erano delle forme di terza generazione meno forti, meno efficaci, meno potenti rispetto a quelle che abbiamo in Italia e in Europa. Io credo che l'Europa rimanga avanti da questo punto di vista e l'Italia in particolar modo rimanga avanti rispetto a tanti altri paesi europei per quanto riguarda la larga banda mobile, larga banda radio. Certo che adesso la sfida si fa più entusiasmante, perché visto che andiamo tutti sullo stesso standard tecnologico, appunto la quarta generazione dell'LTE, vincerà il migliore, vincerà chi riuscirà a stimolare meglio i clienti, vincerà chi avrà un mercato più vivo, una popolazione, una società più ricettiva di queste cose, delle aziende più pronte a utilizzare questi strumenti per fare produttività, per lavorare meglio. Quindi credo che sicuramente la sfida dei prossimi anni sarà una sfida più accesa, però l'Italia è avanti. Vodafone prosegue intanto il progetto 1000 comuni, nei quali l'operatore britannico ha promesso di portare la banda larga mobile con velocità di almeno 2 megabit al secondo. Progetto partito da circa un mese e arrivato oggi alla copertura di 28 comuni. Ci sta dando grandi soddisfazioni al di là dell'aspetto industriale ed economico, perché scopriamo delle realtà per le quali portare la larga banda credo che sia più o meno importante come quando è arrivata l'elettricità, la strada, la ferrovia, cose di questo tipo. Certo è che la vera banda larga è quella che dovremmo o dovrebbero avere tutti i cittadini a casa, e per questo in molti paesi del mondo si stanno attivando i governi, perché portare internet oggi è proprio, come diceva Bertoluzzo, portare l'energia elettrica o una strada, quindi si deve attivare anche lo Stato. Per Bertoluzzo il tavolo attivo al Ministero dello Sviluppo Economico per discutere del progetto Rete Nazionale di Prossima Generazione, quella in fibra ottica, prosegue come previsto. Altri pareri che abbiamo raccolto non sono proprio sulla stessa linea, c'è chi dice che insomma siamo un po' lenti nell'andare in questa direzione. 2024. Riprendiamo la seconda parte di 2024. Ringrazio Paolo Corleoni che si occupa della parte tecnica e creativa del programma. Il nostro indirizzo di posta elettronica, se volete comunicare con noi anche in questo momento, via email 2024 scritto in cifra 2024@radio24.it. Numero verde 800 24 0024 per parlare con noi tra poco, dopo il giornale radio delle 16, e poi anche gli SMS 349 238 6666. Saluto Stefano Maruzzi, che è Country Director, io ho detto fino adesso Manager, ho sbagliato, non è proprio preciso. Benvenuto, grazie di essere con noi. Grazie dell'invito e buon pomeriggio a tutti. Ti facciamo passare un sabato pomeriggio sicuramente diverso. Magari avevi in programma una partita a tennis oppure una passeggiata nelle vie del centro. Ma oggi insomma ci divertiremo a raccontare dell'evoluzione di Google. Io ricordo agli ascoltatori che ho chiamato Stefano Maruzzi, che conosco insomma da un po' di anni, nel dicembre del 2009, quindi un po' di tempo fa, dicendo complimenti perché sei stato nominato. È bello essere amministratore, adesso dico amministratore delegato, sì, per farci capire, di Google Italia. Ma è una bella soddisfazione, sicuro. Perché questa azienda, questi servizi sono un po' sulla bocca di tutti, c'è poca gente che non sa che cos'è Google. po' come la Coca-Cola. Sì, è un brand molto famoso, abbiamo visto anche statistiche fatte, ricerche fatte da società indipendenti, ci dicono che siamo il brand più apprezzato dai consumatori, questa dimostrazione che forse trasferiamo del valore. In tutto il mondo? Sì, è una ricerca mondiale questa, Miller Brown, della società che lo fa. Dicevo, abbiamo aspettato praticamente più di un anno, perché mi hanno detto nel frattempo, tu sei stato un po' di tempo a Londra, e hai ristudiato l'italiano. Giusto. Sì. Questo lo dico anche perché molti ascoltatori, quando noi parliamo di tecnologia, a volte scappano termini inglesi, è inevitabile, perché di fatto, e già qua entriamo poi anche nel vostro mondo, quasi tutti i giorni tu parli in inglese. Parlo, leggo e scrivo, e quindi effettivamente, considerando che molto della tecnologia ha origine direttamente negli Stati Uniti, è facile lasciarsi andare a termini come jailbreaking, per esempio, per dire in pratica rompere la protezione che sta a livello software e anche di licenza su un telefonino, per esempio. Sì, poi immagino che voi diciate invece che il settore della ricerca è il settore del search. Sì, su search ad esempio il problema è capire se è maschio o femmina. Tutti dicono la search e io ho qualche dubbio in merito. Sì, potremmo chiedere anche ai nostri ascoltatori, che invito a chiamarci per parlare di Google, più che altro per parlare dei servizi di Google che ormai si stanno espandendo verso il mobile, alcuni dicono anche il mobile, anche se poi ci si confonde con i mobili invece che abbiamo in casa. Allora dicevo, invito gli ascoltatori a chiamarci al nostro numero verde, il numero gratuito 800 24 00 24. A proposito di cose gratuite, tutto quello che fate, o quasi tutto quello che fate voi nei confronti dei consumatori finali, è gratuito, giusto? Sì, essenzialmente è tutto gratuito e anche direi anonimo, perché se ci pensi bene il motore di ricerca non chiede in nessun modo, banalmente nemmeno la password, l'email o la password, le tipiche combinazioni che sono indispensabili per fare login a un sito. Però a voi piacerebbe che quando io faccio una ricerca io sia loggato con magari la mia user, la mia password della posta elettronica? Può servire una cosa di questo genere, ad esempio per sincronizzare le risposte. Ad esempio, se utilizzi Chrome e salvi i tuoi bookmark sul computer che hai in ufficio, se sei loggato, quindi con la tua email, i bookmark che hai impostato vengono automaticamente trasferiti su tutti gli altri computer dove ti colleghi. Quindi questo può essere un vantaggio. L'aspetto fondamentale è sempre tenere conto che il consumatore deve decidere se vuole fare una cosa di questo genere. Questo è importante, e lo diciamo anche 2024, molto spesso i consumatori non sanno bene come utilizzare i servizi ed è invece importante conoscere questi servizi, leggere magari anche le istruzioni per l'uso. Abbiamo, come abbiamo già fatto la settimana scorsa, fatto realizzare, grazie alla collaborazione di 2.0 Research del gruppo Docs, una brevissima ricerca facendo alcune domande ad un panel in giro per l'Italia sull'utilizzo che fanno di Google. Allora, un primo dato ve lo do io. Secondo Docs, secondo 2.0 Research, circa il 90% delle persone in Italia utilizza Google, l'89%. Ma per quale motivo? Ci risponde Federico Capeci, che è amministratore delegato di 2.0 Research. Ma il motivo principale risiede proprio nella tecnologia, nel senso che la motivazione principale che ci hanno riportato i nostri intervistati di questa preferenza, che tocca il 44% delle risposte, è che proprio Google per loro è il migliore motore, perché dà sempre risultati attinenti. Quindi direi una scelta molto consapevole e posta anche a prova quotidiana nelle ricerche che di giorno in giorno gli utenti fanno. In seconda battuta, una sorta di inerzia e cambiamento, il 18% dice è il primo che ho usato e quindi mi trovavo bene, e un 13% la usability, quindi è facile da usare. Tra quindi il primo motivo e gli altri si vede proprio come questo vantaggio che Google ha rispetto ai propri competitor di riferimento sia proprio dovuto ad una scelta molto cosciente degli utenti. Che cosa ci fanno gli utenti internet su Google? Che tipo di ricerche fanno? Ma Google oggi è la porta di internet e quindi è usato per approfondire, quindi aggiungere informazioni a quanto le persone apprendono offline su un prodotto, su una notizia, anche per cercare un hotel, un campeggio, come oramai i nostri dati ci dicono da tanto tempo. Questa parte copre il 75% dei nostri utenti. Quello che è interessante, che non notavamo qualche tempo fa, è l'entrare anche nella sfera privata delle persone, per cui usare Google anche per avere informazioni o finanche riprove dell'esistenza di persone conosciute per motivi professionali o anche per motivi personali. Una cosa che secondo me è ancora più interessante è capire qual è la reazione di fronte ad una ricerca che non porta il risultato che noi stavamo cercando, quello atteso. Quali sono le reazioni? Ma se fino ad ora abbiamo visto comportamenti piuttosto omogenei nella popolazione internet e nelle sue scelte, in questo caso ci si spacca in tre grandi sottosfere e quindi un terzo della popolazione internet sostanzialmente dichiara nulla di grave, cerco altrove, un altro terzo dice mi dispiace perché in realtà altri canali non sono così facili da interrogare o comunque ottenere le stesse informazioni. Un altro terzo invece si mostra molto dispiaciuto, insospettito, tanto che Google per queste persone diventa una sorta di endorser, un garanter dell'esistenza stessa delle informazioni ottenibili dalla rete. Cioè quasi quasi dicono se non l'ho trovato vuol dire che non esisto, che non è mica tanto importante. Esattamente, non è così noto e c'è una quota non trascurabile che è attorno al 10% che dire addirittura inizia a dubitare sulla sua esistenza. Se considerate poi che un terzo degli utenti internet utilizza Google anche per cercare persone conosciute, ripeto, a livello professionale o personale, e beh, ci pone dei quesiti abbastanza interessanti. Quindi mi verrebbe da dire che si affida a Google una sorta di certificazione di quello che c'è in rete. Ma Google viene attribuita non solo da questa ricerca ma da altre che conduciamo durante l'anno una percezione di imparzialità ed è frutto stesso di internet e della libertà che si trova in rete ed è il motivo stesso per cui poi alla fine preferiscono di gran lunga accedere tramite questo motore di ricerca piuttosto che in altre modalità. È sicuramente una bella responsabilità e magari anche di questo parleremo tra poco. Stefano, abbiamo un minuto prima di dare la linea al giornale radio. Ci diceva, non l'ha detto ma l'ho citato io, il dato trovato in questa ricerca, l'89% delle persone si affida a Google. Vi torna questo dato? Sono sì. Così tante le persone? Sì, ovviamente fa piacere sentire tutte queste informazioni e questi dati positivi. In Italia stimiamo che sia intorno al 90% l'utilizzo di Google, varia da mercato a mercato, ad esempio negli Stati Uniti è il 65%, in altri mercati dove c'è una forte componente linguistica diversa dalle lingue occidentali la percentuale scende. Ricorderai la Cina, eravamo secondi, e anche in Russia c'è una forte competizione locale. 2024. Riprende 2024, oggi parliamo di Google, dei servizi nuovi di Google, delle evoluzioni che il motore di ricerca, l'azienda che faceva una volta solo il motore di ricerca, sta realizzando in tutto il mondo. È con noi Stefano Maruzzi, che è responsabile per l'Italia di Google. Stefano, a proposito di nuovi servizi, una cosa che voi fate già da un po' di tempo ma che forse sta per decollare o decollerà nei prossimi anni, anche grazie alla diffusione della banda larga, è tutta una piattaforma di servizi, ad esempio la Gmail, che richiede un ecosistema un po' diverso da quello al quale siamo abituati. Voi dite, ma non solo voi, tutto basato sul web. Alcuni citano ad esempio l'evoluzione del cloud computing. Che cosa state facendo e soprattutto per quale motivo? Perché vi interessa la Gmail, i documenti sul web? È una situazione che si sta delineando grazie all'evoluzione della tecnologia. Se ti ricordi qualche anno fa fare un'interrogazione su un qualsiasi motore di ricerca dell'Europa aveva un certo tempo di latenza perché le reti non erano così evolute come lo sono oggi. Oggi abbiamo la possibilità di offrire servizi ad altissimo valore aggiunto a qualsiasi utente in qualsiasi locazione si trovi sul pianeta e questo è un grosso vantaggio. Hai aggiunto anche prima, abbiamo sentito Bertoluzzo, anche sulla dimensione mobile. Quindi reti fisse e reti mobili. In più, se si sviluppano dei servizi che vengono erogati remotamente, si riesce a trasferire un valore gigantesco al consumatore. L'esempio più lampante è nell'ambito dei telefonini. Oggi il 30% delle interrogazioni che arrivano sul motore di ricerca Google negli Stati Uniti su dispositivi Android viene fatto con comandi vocali. E questo ovviamente è un'attività abbastanza complicata che non trova nel telefono la risposta, ma in data center, quindi migliaia di computer che fanno il processing delle informazioni, la soluzione, la percezione che ha il consumatore è che parla al telefono e nel giro di un secondo ha una risposta. Quindi invece di scrivere il nome, che ne so, io cerco una cosa sul calcio, invece di scrivere calcio io pronuncio la parola. Ma è un ottimo esempio, io faccio sempre una cosa di questo genere, pronuncio sempre la stringa pictures of Diego Milito, fotografie Diego Milito, la faccio apposta in inglese perché non è la mia lingua e uso un termine argentino, un nome e cognome argentino, quindi per mettere ulteriormente in difficoltà. Facendo questa cosa davanti al mio telefono, nel giro di un paio di secondi ottengo una risposta dal motore di ricerca che prevede N foto di Diego Milito, sono milanista tra le altre cose, questo per dimostrare la mia imparzialità, e poi ovviamente tutto un elenco di link a siti web. Questo perché alle spalle, attraverso il cloud computing, attraverso reti veloci, siamo in grado di offrire un'intelligenza che mai e poi mai saremo in grado di mettere, non solo noi, dico qualsiasi produttore, all'interno di un telefonino. Ok, quindi spostate l'analisi dei dati nei data center. Senti, ma per quale motivo voi fate questo? Che è anche in questo caso gratuito, perché sì, tutti questi servizi sono gratuiti per... Ma è sempre un'estensione del concetto di mettere a disposizione del consumatore informazioni / contenuto, no? Vediamo l'evoluzione che c'è stata negli ultimi 10-15 anni, il contenuto oggi, una volta digitalizzato, è tutto. Un libro è diventato contenuto. Le scommesse, che una volta erano legate a una tempistica particolare, sono diventate istantanee, sono un contenuto elaborabile e anche un pacchetto informativo che può interessare determinati utenti. Quindi in uno scenario evolutivo a grande velocità come quello della tecnologia è assolutamente necessario continuare a sperimentare, lanciare nuovi servizi e spostare in avanti quella che è la frontiera di quello che è consolidato oggi, anticipando possibilmente le esigenze dei consumatori. Senti, come fate i soldi voi? Perché abbiamo detto che offrite un sacco di cose, il motore di ricerca è gratuito, sì, la mail è gratuita, tutto quel software che esiste online che è collegato alla Gmail, che permette, sì, appunto di scrivere documenti, eccetera, eccetera, è gratuito. E quindi come fate i soldi? Abbiamo appena fornito i dati dell'ultimo trimestre del 2010. Nel 2010 abbiamo raggiunto quasi 30 miliardi di dollari di fatturato e la quasi totalità di questa cifra deriva dalla vendita di pubblicità, principalmente legata al motore di ricerca, ma abbiamo già segnalato qualche mese fa anche la forte crescita delle attività pubblicitarie di tipo display, quindi banner e in ultima battuta più recentemente i video. Quindi considera, quando un utente fa una ricerca, potrebbe essere idraulico o qualsiasi altra cosa, oltre alla risposta organica, quindi le n pagine con link relative a quello che è stato richiesto dal consumatore, compaiono un numero variabile di link sponsorizzati. Nel momento in cui un utente schiaccia su questi link, noi incassiamo qualche soldo. Sono tanti tanti tanti click, considerando che il costo di queste inserzioni pubblicitarie è decisamente molto basso ed è determinato da un meccanismo d'asta, però la combinazione di questi volumi fa sì che si arrivi essenzialmente ai 30 miliardi di dollari a cui facevo riferimento prima. Dunque, ci sono già alcune domande di alcuni ascoltatori, allora comincerei a sentirli. Tra poco Carlo da Torino, che ci aprirà un po' lo scenario social, perché è una cosa molto interessante. Prima però vorrei sentire Daniel da Milano e poi Fabrizio da Verona. Daniel, buongiorno. Buongiorno. Tanto complimenti per la trasmissione. Una domanda che volevo fare all'amministratore delegato di Google per quanto riguarda il servizio Google Voice, se è previsto in tempi abbastanza brevi, se sarà attivato anche in Italia e in Europa, oppure è una cosa che rimane negli Stati Uniti, nei nostri sogni. Grazie Daniel. Lei utilizza o tu utilizzi Google normalmente? Sì, Google tantissimo, c'era in particolare la posta elettronica di Gmail che è veramente fantastica, perché non si perde praticamente niente, per cui si lavora molto bene. C'è un mio amico che utilizza, grazie Daniel, c'è un mio amico che utilizza anche per lavoro ormai la Gmail, dice: se mi spengono la Gmail sono rovinato. No, speriamo di no. Dunque, diciamo che Google Voice è un sistema che è collegato alla posta elettronica Gmail per fondamentalmente telefonare utilizzando internet, giusto? Sì, sono tante cose Google Voice. Negli Stati Uniti l'incarnazione principale è fornire al consumatore un numero di telefono unico e universale. all'interno del quale possono essere veicolate chiamate provenienti da n numeri di telefoni indirizzati all'insieme dei numeri di telefoni di cui noi disponiamo tipicamente. Potrebbe essere il cellulare, il fisso, il numero di casa. E questo è il trend che sta prendendo piede negli Stati Uniti, e di una praticità, di una comodità incredibile nei confronti dell'utente, perché proprio immaginati da questo momento in poi potresti avere un tuo numero di telefono per i prossimi n anni, quindi senza nessuna scadenza, senza nessuna esigenza di portabilità, al quale fare confluire di volta in volta chiamate indirizzate verso altri numeri. Quindi cambi azienda, cambia il tuo fisso, non hai da esporre nei confronti dei tuoi contatti il nuovo numero di telefono. I sogni si avverano, quindi noi non facciamo mai anticipazione sui dati di rilascio dei nuovi prodotti, ma mi sentirei di dire a Daniel di essere confidente. Cioè che potrebbe arrivare quando? Presto. Marzo? No, già no. Primavera o così estate? È troppo, così è troppo. Non possiamo. Però non d'estate, cioè prima dell'estate. Vabbè. Prossimamente. Adesso ci fermiamo per un minuto, questo è 2024, riprendiamo tra poco con Fabrizio da Verona. Numbers 2024. Il paese europeo con la maggiore percentuale di utenti internet è la Svezia, con l'88% della popolazione alla pari dei Paesi Bassi. Seguono Danimarca e Lussemburgo con l'86% della popolazione che va online. Qual è la percentuale di italiani che utilizza internet? Numbers. 2024. Vi abbiamo domandato qual è la percentuale di italiani che si connettono alla rete internet. Secondo gli ultimi dati Istat, sono il 48,9%, quindi 49% della popolazione dai 6 anni in su utilizza internet. Purtroppo è una percentuale piuttosto bassa perché, come avete sentito, guardando solo all'Europa senza andare troppo in là, la Svezia e i Paesi Bassi sono all'88%, la Danimarca all'86%, così come il Lussemburgo. Ma se guardiamo ai nostri vicini di casa, anche paesi con i quali ci confrontiamo, nel Regno Unito siamo all'80%, in Francia al 75% e in Germania al 74%. Stefano, sono percentuali certo non positive. Questo di fatto influisce anche sul vostro business, perché meno gente online, meno business fate voi, giusto? Di sicuro, però vorrei avere un atteggiamento ottimista e positivo. Il 2010 è stato un anno sicuramente di cambiamento, di accelerazione per quanto riguarda l'economia digitale in Italia, anche in termini di adozione di internet da parte dei consumatori. Le stime indicano una crescita del 14-15% della popolazione online, il gap rimane molto forte, i numeri li hai appena trasferiti, però credo che nei prossimi anni, quindi 2011-2012, assisteremo a un sostanziale livello di maturazione dell'adozione di internet qui da noi in Italia. Senti, prima quando abbiamo sentito l'intervista a Bertoluzzo, io ho fatto anche un riferimento a questo tavolo che c'è per costruire la rete di prossima generazione, ma al di là di questo particolare, in generale, qual è il tuo parere della politica, ma proprio del sistema paese nei confronti della tecnologia e dell'evoluzione anche delle reti? Ma in generale nei confronti della tecnologia abbiamo un atteggiamento variabile. Gli smartphone ad esempio sono stati apprezzati, e i telefoni prima ancora, i telefoni mobili, da gran parte della popolazione. Su tecnologie un pochino più sofisticate come i personal computer prima e più recentemente internet, forse abbiamo una difficoltà maggiore proprio di tipo culturale, e quindi è qualcosa di difficile da superare. E la politica non aiuta, mi sembra. E forse si trasferisce anche nella classe dirigente del paese, che rispecchia quello che è lo scenario generale della nostra popolazione. Ma ribadisco, passi avanti credo che se ne stiano facendo, ci sono iniziative da parte di aziende come il caso specifico di Vodafone, comunque sperimentazioni anche da parte di Telecom Italia, quindi nell'ambito della connettività credo che nei prossimi mesi assisteremo a tutta una serie di passi avanti significativi. Voi non fate cose come state facendo negli Stati Uniti, so che in un paese, avete preso d'occhio un paese, dite lì vogliamo fare una rete in fibra ottica da un gigabit, sì, cose del genere. In Italia difficilmente le fate. Quello che stiamo facendo negli Stati Uniti è un'iniziativa partita un annetto fa, è proprio un test tecnologico, riuscire a mettere insieme tutte le componenti tecnologiche d'avanguardia in questo momento per costruire una rete ad altissima velocità. Il nostro obiettivo ha raggiunto la realizzazione pratica di questo esperimento è quello di condividere il know-how maturato con chiunque sia interessato, e tipicamente saranno operatori telefonici o di connettività. Non abbiamo nessuna intenzione di entrare nel business della fibra ottica o comunque delle reti. Quindi in Italia cose del genere no? L'esperimentazione no, è difficile, anche perché è riservata spesso e volentieri agli Stati Uniti. Fabrizio da Verona, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Vorrei parlare col CEO di Google Italia di un tema molto di attualità tuttora, il 3D, sebbene sia a volte trattato anche un po' impropriamente, perché secondo me i contenuti languono un po' ancora tuttora, e non sia trasmessi che su Blu-ray, insomma, languono. Ma vorrei sapere, al di là di YouTube che ha avviato una sperimentazione con gli occhialini per vedere dei film in 3D, se Google pensa di estendere i propri servizi già esistenti, tipo Maps o immagini, a questo avvento del 3D, insomma, se ha in programma in futuro, sta calcolando qualcosa. Grazie Fabrizio, io una domanda così non l'avrei proprio immaginato, quindi interessante. Gli ascoltatori trovano sempre. Grazie Fabrizio e buon ascolto. Sentiamo cosa ci dice Stefano Maruzzi. Sì, quando un contenuto parte in digitale, come potrebbe essere un'immagine dal satellite o un filmato, farne una versione 3D è molto molto semplice. L'abbiamo visto anche recentemente in pellicole cinematografiche che appunto non sono più pellicole ma sono dei file. La versione 3D nasce quasi nativa. Il problema è, credo, non tanto quindi nella produzione, lato nostro, quanto piuttosto nell'interesse da parte dei consumatori in questo momento nel sfruttare questo genere di tecnologia. Come ricorderai, l'anno scorso a gennaio c'è stata una grande enfasi su soprattutto televisori 3D, lanci, annunci da parte dei maggiori produttori. Se fosse un po' esagerata. Esatto, perché la risposta da parte del mercato, nonostante un prezzo in linea con i prodotti non 3D, è stato molto più tiepido di quanto si potesse aspettare. Quindi credo sia un problema di allineare la tecnologia con le esigenze, le aspettative e la volontà del consumatore, piuttosto che un problema realmente di tipo tecnologico. Ma in generale vi interessa su YouTube? Perché ricordiamo, YouTube è di Google, appartiene a Google. Sì, certo. No, ci interessa nel momento in cui riusciamo a fornire un servizio che riesce a rendere l'esperienza semplice e comoda. E come avrei notato, la diatriba è con o senza occhialini, e credo che forse questo sia il punto di svolta. Anche se, ricordiamo, ma l'abbiamo detto da questi microfoni più volte, le TV che permettono di vedere il 3D senza occhialini, a parte che sono ancora esperimenti, certo, ma richiedono di rimanere fissi in una posizione, una posizione particolare, funzionano molto poco. Dunque, sentiamo Carlo da Torino. Buongiorno Carlo. Buongiorno. Io sono un Chief Technology Officer e quindi le strategie di Google mi interessano molto, disegnano quello di cui dovrò occuparmi nel futuro. Due domande veloci. Google ha lanciato Google Buzz qualche tempo fa e ho sentito che c'è qualcosa di nuovo nel mondo social, e invece, in un campo diverso, le Connected TV e cosa Google pensa di fare nel mondo Connected TV. Ottime domande. Grazie Carlo. Grazie a voi. Dunque, diciamo subito che non è che tutte le ciambelle escono col buco da Mountain View dove avete sede. Non necessariamente. Nel senso che con Buzz e con tutta la parte social network non vi è andata mica tanto bene. Sì, adesso servizio... non vorrei usare la parola fallimento, però mi sembra che non abbiate fatto un gran successo. No, ma ci può stare, fa parte anche della filosofia dell'azienda, lanciare prodotti e cercare di migliorarli nelle versioni successive. Buzz era un'estensione lanciata un anno fa a Gmail per aggiungere una componente social. Come dicevi tu, la risposta da parte dei consumatori non è stata in linea con le nostre aspettative, ma ci può stare, e da queste esperienze non facciamo nient'altro che imparare. Per quanto riguarda prossimi annunci in ambito social, ritorno al punto di prima, non facciamo commenti. È chiaro che c'è ancora grande spazio e possibilità di innovazione ed inventiva intorno all'ambiente social, che è relativamente nuovo, e l'abbiamo visto anche nel 2010 con nuove iniziative che hanno raggiunto milioni e milioni di consumatori nel giro di poco tempo. Penso al fenomeno degli acquisti coupon di gruppo. Quindi c'è tanto tanto spazio per innovare, e ovviamente questo è nel nostro radar. Per quanto riguarda la Connected TV, tanti esperimenti. Ricordiamo cosa sono le connected TV, cioè oramai oggi le TV, o meglio, molte delle TV che vengono vendute hanno anche una presa di rete, quindi si possono connettere ad internet. Adesso c'è la nuova moda di chiamarle smart TV, con grande fantasia, prendendo spunto dagli smartphone. Voi avete annunciato Google TV, che di fatto è una piattaforma che sta dentro la televisione, giusto? Certo. Il televisore. È un prodotto che negli Stati Uniti è commercializzato già dal 18 ottobre, quindi qualsiasi consumatore americano potrebbe andare in un negozio Sony, perché Sony è stato il primo produttore a incorporare, diciamo, l'intelligenza di Google TV all'interno dei propri dispositivi, e quindi portare a casa un televisore equipaggiato essenzialmente di un browser. Semplificando, è come se ci fosse all'interno della televisione un browser, con l'obiettivo di rendere il meglio di tutti quelli che sono i contenuti digitali disponibili sulla rete e nel palinsesto televisivo delle varie stazioni che raggiungono lo schermo di casa. Correggimi se sbaglio, questa cosa nei confronti dell'utente finale è un po' come le piattaforme che sono state lanciate dalla stessa Sony, che è una roba che si chiama Curiosity, o Panasonic, che ha il sistema VieraCast, perché ne abbiamo parlato 2024, oramai i produttori proprio del pezzo di ferro TV stanno facendo concorrenza ai broadcaster, quindi a chi normalmente diffonde i contenuti e i programmi, e mette proprio una piattaforma dalla quale io posso scegliere direttamente sul TV collegato ad internet un film, un programma, eccetera, una roba del genere. Sì, nel caso specifico di Google TV, che ricordo non è disponibile in Europa, al momento è soltanto disponibile negli Stati Uniti, quindi parliamo di un'esperienza che non possiamo purtroppo commentare in prima persona qui da noi, e la realtà è semplicemente di accedere al contenuto, quindi non c'è da parte nostra una contribuzione in termini di programmazione o feed di film, movies o TV shows, niente di tutto ciò. Mettendo in pratica un browser, e quindi la flessibilità che offre il browser nella direzione della ricerca e dello sviluppo di applicazioni software, riteniamo che l'esperienza che il consumatore possa trarre da queste televisioni sia molto più ricca, proprio perché accede a tutto il contenuto di internet. Senti, a proposito di social network, c'è chi dice che oggi il vostro vero concorrente è Facebook. Sì, dobbiamo smentire questa cosa, perché non più tardi di 2 giorni fa il nostro amministratore delegato, il vero amministratore delegato di Google, quindi Eric Schmidt, ha detto: temiamo Microsoft, il nostro vero avversario è Microsoft. Per sviare un po'. Possibile. in realtà credo che lo scenario sia molto dinamico. Ancora una volta, anche riagganciandomi alla ricerca di apertura della trasmissione, sono passati 12 anni dalla fondazione di Google, e in questi 12 anni sono stati fatti progressi significativi al nostro interno, ma anche all'esterno, e penso che se abbiamo ancora un market share così significativo come quello che è stato indicato qui nel mercato italiano, è perché abbiamo costantemente innovato il prodotto, in questo caso Search, in quanto tale, rispondendo alle esigenze dei consumatori. La tecnologia, l'innovazione arriva da dove meno ti aspetti. C'è ovviamente una storia molto ricca dei vari garage della Silicon Valley, quindi c'è da stare attenti alle grandi aziende, ma anche all'innovazione proprio che nasce o dal dormitorio universitario o dalle piccole. Sì, ma perché dite che il vostro vero concorrente è Microsoft e non Facebook, che oramai è negli Stati Uniti in alcuni momenti il primo sito più visitato, insomma? Ci sono molte aree di sovrapposizione della nostra offerta con quella di Microsoft. Prima abbiamo citato le apps, quindi tutti Gmail e alle applicazioni in cloud computing. Questo è ormai compreso da tutti come un trend fondamentale dell'evoluzione nell'ambito dell'information technology. Quindi in questo caso Office per esempio. Poi per quanto riguarda il discorso del motore di ricerca, ovviamente è noto a tutti che ci sia da parte di Microsoft un tentativo di diversi anni di cercare di recuperare terreno perduto. Su questo non c'è dubbio, cioè l'unico vero concorrente a livello globale è Bing di Microsoft. Sì, se vai a vedere il market share negli Stati Uniti, in realtà Yahoo è molto superiore al market share di Bing. Però la tecnologia è sempre quella di Bing. No, quindi. No, ma prima ancora, voglio dire, il 17% era Yahoo e l'8%, 9% circa Bing. E poi ovviamente molto banalmente è un problema di risorse. Se vai a vedere le risorse sia in termini di brain power, cioè capacità di innovazione, di marchio, esatto, ma anche proprio di cervelli, dico di capacità ingegneristiche, risorse di tipo economico, connessioni a livello di mercato, capacità di evangelizzare, di toccare la comunità degli sviluppatori. Stiamo parlando di un'azienda di grandissimo successo, consolidata, che opera da più di 30 anni in tutto il mondo. C'è un sacco di soldi. Esatto. Dunque, adesso abbiamo un momento dedicato alla pubblicità, poi sentiamo Andrea e Romano, poi ho ancora due domande. Una, ad esempio, riguarda il mondo del lavoro, perché Google ha annunciato a livello mondiale una serie di assunzioni e un migliaio di posti di lavoro anche in Europa. Visti i tempi che corrono, la notizia non è da sottovalutare. A tra poco. 2024 Numbers. Google è in assoluto uno dei siti più cliccati nel mondo. Quanti sono i visitatori giornalieri di google.com? Numbers. 2024. Riprende 2024, la quasi ultima parte del nostro programma. È con noi Stefano Maluzzi, che è responsabile per l'Italia di Google, e quindi di Google Italia. Abbiamo fatto una domanda all'interno della nostra rubrica Numbers. Potete suggerirci via mail qualche numero, citando anche la fonte, se volete che lo inseriamo nella nostra rubrica. Dicevamo, quanti visitatori fa google.com? Abbiamo trovato un dato del 2009, ma l'abbiamo usato anche come scusa per fare la domanda a Stefano Maluzzi. Noi abbiamo trovato un dato di 620 milioni di persone, è un dato del 2009, quindi presumo che oggi siano quasi un miliardo. Sì, è in costante aumento, e soprattutto interessante notare quanto aumenti e cresca la percentuale di interrogazioni sul motore di ricerca proveniente da dispositivi mobili in tutto il mondo. A proposito di dispositivi mobili, voi avete investito, direi pesantemente, su Android, che è un sistema operativo che sta facendo concorrenza, oggi è già direi il numero due nel mondo dopo Symbian, quindi ha superato Apple con iOS, utilizzato da un sacco di produttori sia di smartphone che di tablet computer. Ad esempio molti stanno attendendo Motorola con questo Xoom, che dicono tutti sia fantastico. Perché fate anche Android? Perché fate un sacco di cose voi. Sì, Android è il risultato di una delle tante acquisizioni che l'azienda fa costantemente, in questo caso bisogna risalire a 3 anni fa, e ritenevamo che ci fosse spazio nell'ambito dei sistemi operativi per dispositivi mobili per un'ulteriore innovazione, un'ulteriore spinta in avanti. Quindi tecnologicamente riteniamo che Android sia un prodotto all'avanguardia. E come dicevi tu, è un'altra delle nostre iniziative che noi regaliamo. In questo caso a beneficiarne direttamente non sono gli utenti finali, perché gli utenti finali non comprano un sistema operativo per telefonini, ma ovviamente i produttori di hardware. E questo comunque ha consentito lo svilupparsi di un ecosistema e anche la produzione di decine e decine di modelli diversi, spesso estremamente innovativi. E credo che questa sia la chiave del successo di Android. Ma perché? Perché la gente andrà sempre più mobile. No, ma dico, perché voi avete questa esigenza anche di allargare così tanto il mercato? C'è chi dice, gli esperti dicono, Google gestisce dati fondamentalmente per poi vendere la pubblicità tramite il motore di ricerca, quindi più utenti ci sono, più dati si possono raccogliere. Utilizza anche una battuta di un esperto di data warehouse, gente che lavora con i dati tutti i giorni, che citava un'azienda dove se tu non raccoglievi i dati venivi licenziato, perché i dati sono fondamentali a questo mondo. Sì, in questo caso ritorno su quello che dicevamo all'inizio della trasmissione: le interrogazioni che vengono fatte sul motore di ricerca, sia da una pagina web che da un telefonino mobile, sono anonime per la grandissima percentuale dei casi, quindi non si tratta di raccogliere dati sul comportamento delle persone, non vorrei che trasferissimo questo genere di impressione. E per rispondere alla prima parte della domanda, perché andare sui dispositivi mobili, gli smartphone credo in questo momento si possa dire con certezza, magari estendendo il concetto ai tablet, ma sicuramente gli smartphone sono la tipologia di dispositivo più interessante per i prossimi 2 o 3 anni. Sono potentissimi, hanno la potenza di calcolo di un computer di 2 o 3 anni anni fa, forse di un mainframe di 5 o 6 anni fa, sono dotati di sensi, pensa alla vista, all'udito. Ho fatto prima l'esempio di fare dei comandi vocali nei confronti di uno smartphone. Sempre più gente, anche in un contesto di connettività presente ovunque, si trova ad avere 24 ore su 24 uno smartphone. Tante interrogazioni sul motore di ricerca, e si chiude il cerchio con la pubblicità. Sentiamo Romano che ci chiama da Bologna. Buongiorno Romano. Buongiorno a voi, Pagliarini, grazie intanto perché la trasmissione è veramente interessante, e grazie anche all'amministratore delegato di Google, perché Google è altro, tanto interessante. La domanda secca è: a quando un sistema operativo, partendo magari da Chrome OS o piuttosto che da Android, completo, per esempio per sostituire XP o piuttosto che 7? Grazie Romano, grazie dei complimenti. Dico, perché è importante, Maruzzi è responsabile per l'Italia, tecnicamente non è amministratore delegato, lo dico perché poi magari qualcuno cita la trasmissione riportando questa indicazione, però insomma fondamentalmente fa quello di mestiere. Dunque, voi avete Chrome OS, che è un sistema operativo che non esiste sul mercato ancora, giusto? No, abbiamo appena l'annunciato il 7 dicembre, quindi è una cosa fresca ma ancora a livello beta. E arriverà presto? Abbiamo... sui computer veri e propri? Sì, a questo punto uno dice: come, avete appena detto che Android sui tablet, e i tablet fanno successo e sostituiranno i computer, sì, e lanciate anche Chrome OS. È uno scenario diverso. Già negli anni 90, metà degli anni 90, non so se ti ricordi, si vagheggiava del net computer, un computer praticamente senza disco fisso, permanentemente collegato a internet, ed era molto presto, non c'erano le condizioni di fondo dal punto di vista tecnologico. Oggi abbiamo una realtà di fatto rappresentata da un'utenza che spesso e volentieri vive esclusivamente su internet, e in quest'ottica inteso Chrome OS. È un sistema operativo leggero, veloce, in pratica sostituisce tutte le applicazioni tipiche su un laptop con un singolo browser, dato che il browser comunque è l'applicazione più complessa e più flessibile in assoluto sul nostro PC. Presuppone una connettività, come dicevo prima, quasi omnipresente, e si rivolge a una tipologia di utenza che ha bisogno di processing power, una tastiera, e si trova bene in un contesto qui di grande mobilità. I tablet invece, gli smartphone, sono delle versioni differenti, più leggere, capaci anche di funzionare molto bene scollegati dalla rete. Penso ai tablet, danno tante soddisfazioni guardando film, ascoltando musica, non necessariamente essendo collegati in quel momento. Senti, prima abbiamo parlato di offerte di lavoro. Sì. Noi solitamente parliamo di tecnologia, però questo è un tema strettamente collegato. Google ha annunciato nel mondo 6.000 assunzioni per i prossimi mesi, 1.000 in Europa. Quante riguardano l'Italia? Sì, il numero non è ancora definito in maniera analitica per quanto riguarda il mercato italiano. In questo momento credo che ci siano almeno una trentina di posizioni aperte per il nostro ufficio di Milano, che è l'unico che abbiamo qui in Italia, e mi auguro che nell'arco dell'anno aumentino. Abbiamo una visibilità più o meno fino verso aprile, maggio di quest'anno. Per fare che cosa? Perché uno si chiede, ma la tecnologia viene sviluppata negli Stati Uniti e in qualche altro centro? Io so che ad esempio in Europa avete, sì, un centro a Grenoble, mi pare. No, è grosso a Zurigo. Zurigo. Poi ci sono delle aree di specializzazione, ad esempio a Monaco di Baviera nel settore dell'auto. Ecco, invece in Italia cosa fate? Vendete solo pubblicità? Siamo essenzialmente dei consulenti nell'ambito della vendita di pubblicità qui in Italia, quindi più nazionali, di sales e marketing. Esistono anche delle posizioni di tipo ingegneristico, ma sono abbastanza limitate, quindi anche queste 30 posizioni aperte in questo momento vanno nell'area sales, nell'area marketing, nell'area PR, legal, policy, quindi coprono la nostra divisione enterprise, coprono un po' le diverse anime dell'azienda, meno nell'ambito del settore ingegneristico. Senti, dal vostro punto di vista, poiché si parla spesso di questa crisi che ancora non ci ha abbandonato, come vanno le cose? Molto bene, abbiamo chiuso l'anno, appunto ti dicevo prima, con un tasso di crescita medio del quasi 30%, parlando di volumi iper significativi. Non diamo mai il dato per singola nazione, sì, però questi indicazioni... È molto bene, tipo l'Italia cresce del 10, del 20 o del 40%, a spanne. Sì, è una cifra estremamente significativa, più vicina a all'ultima di quelle che hai detto. 40%? Non ho detto 40%, no. Più vicina a quelle alte, quindi un tasso di crescita in linea con i tassi di crescita internazionali. Quindi a doppia cifra comunque. Assolutamente. Ma se tu guardi, visto che voi lavorate nell'ambito della pubblicità, la pubblicità alcuni dicono che è anche un po' un termometro di come vanno le cose, ecco. Guardando il vostro termometro, come sta la temperatura dell'Italia? Bene, bene, per la posizione sicuramente privilegiata di cui noi godiamo. Hai citato prima YouTube, che è un prodotto sicuramente molto apprezzato dai consumatori e di conseguenza anche dalle aziende che devono fare comunicazione, oltre a Search, che ha una sua validità intrinseca nel trasferire valore per chi deve fare pubblicità. Però in generale c'è anche un'altra dimensione molto importante, cioè le aziende finalmente si sono rese conto che i consumatori passano molto più tempo sulla parte digitale rispetto a 1, 2, 3 anni fa, e questa quantità di tempo inizia a essere significativa nell'ambito delle 24 ore, e di conseguenza se vogliono parlare con questi consumatori devono fare investimenti in ambito digitale. Quindi c'è questa doppia dimensione che ci vede vantaggiati rispetto ad altri mezzi di comunicazione in questo momento storico, e non è soltanto un fenomeno italiano, ma è un fenomeno che riguarda tutti i paesi, è un trend. Ecco, se tu dovessi dire che tipo di aziende hanno capito questo, tutte o alcune in modo particolare? Sono molto ottimista ultimamente, ti dicevo prima, il 2010 è stato un anno di svolta, anche aziende del settore del largo consumo hanno apprezzato in maniera significativa i vantaggi che la comunicazione digitale offre. Magari queste tipologie di aziende che sono storicamente i grandi spender, quelli che investono grandi cifre in termini di comunicazione, soprattutto televisiva, si appoggiano di più a una comunicazione visiva, quindi tantissimi video. Credo che il 2010 verrà ricordato in Italia come l'anno dell'esplosione dell'utilizzo dei video da parte dei consumatori e dell'abbinata di pubblicità, i classici spot televisivi come li chiamiamo, ai video visti dai consumatori. Questo non solo per quanto ci riguarda, ma in generale. Riusciamo a prendere un'ultima telefonata. Guglielmo da Bari, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Hanno pensato di sviluppare un servizio come Google Maps con Street View per poter visualizzare le coste, quindi una sorta di cost view, quindi da poter utilizzare per la nautica da diporto, e quindi sviluppare tutta una serie di servizi per chi al di là del piacere di poter visualizzare le sì, coste, sì, chiaro, eventualmente applicare la tecnologia 3D di cui stavate parlando prima. Guglielmo, è un'ottima domanda, io anche questa non l'avrei proprio immaginata. Prego Stefano. No, non mi risulta, mi sembra un'ottima idea, forse magari più che un'immagine 3D per valorizzare la bellezza delle coste italiane, un'immagine a 45 gradi, quella che chiamiamo vista di falco, no? Un pochino sì, dall'alto sì, sì. Inclinata, potrebbe essere una cosa utile. Sempre di più stiamo mettendo immagini con questo taglio di inclinazione sulle aree metropolitane principali, e in prospettiva cercheremo di coprire tutto il territorio, quindi è un ottimo suggerimento. Prendiamo nota. Volevo chiudere con uno spunto di riflessione anche per gli ascoltatori. Abbiamo parlato all'inizio, quando abbiamo citato alcuni dati di 2.0 Research, voi avete una grande responsabilità, perché se io ho, che ne so, un piccolo negozio, un'azienda, e non appaio nei primi, prima pagina, seconda pagina, terza pagina, quasi quasi io non esisto. Quindi immagino siate consapevoli di questo, e su quella che viene chiamata qualità della ricerca ci siano grandi investimenti, perché addirittura negli Stati Uniti c'è chi dice che addirittura lo Stato dovrebbe cominciare a controllare la qualità della ricerca, perché siete diventati di fatto uno strumento che è utile anche al business di molte aziende, giusto? Ah, di sicuro. Sulla qualità credo che abbiamo un atteggiamento maniacale, onestamente. Nel momento in cui dovessimo fallire in questa direzione, il grande supporto che abbiamo riscontrato anche attraverso la ricerca da parte dei nostri consumatori verrebbe eroso istantaneamente, quindi non possiamo accettare nessun genere di compromesso. Giusto per darti un parametro, l'anno scorso abbiamo fatto 500 miglioramenti al motore di ricerca con l'obiettivo di renderlo più utile e qualitativamente rispondente alle esigenze dei consumatori. Per quanto riguarda gli eventuali interventi governativi e cose di questo genere, sorvolerei onestamente. No, perché l'ho citato perché negli Stati Uniti sai che c'è un grosso dibattito non solo sulla network neutrality, certo, che abbiamo cominciato a dibattere anche in Italia, ma su una cosa molto raffinata, ma questo è proprio uno spunto di riflessione che online uno può approfondire, sulla cosiddetta search neutrality, che è un bel tema, insomma. Sì, ti ho detto, quello che è interessante nel nostro settore è la tecnologia evolve e c'è possibilità anche oggi da parte di due ragazzi svegli di riuscire a costruire degli imperi. L'abbiamo visto anche recentemente, quindi c'è spazio per innovazione su tutti i fronti. Bene, io ringrazio Stefano Maruzzi per essere stato con noi. Stefano, se ti è piaciuto ti invitiamo prossimamente. Molto volentieri, grazie davvero. Grazie ai nostri ascoltatori, ma tra poco riprendiamo con il nostro National Geographic. 2024. Bentornati a 2024, l'ultima parte del nostro programma, anche questa settimana la nostra rubrica in collaborazione con National Geographic, canale 403 della piattaforma Sky. Oggi parliamo di mega casinò. The Venetian, il veneziano, è uno dei palazzi più grandi del mondo e anche uno dei luoghi da gioco più grandi del mondo. Si trova sulla Strip, la via principale di Las Vegas nel deserto del Nevada. Dal 2007 esiste anche un gemello in Cina chiamato The Venetian Macao, ma noi parleremo dell'originale. Nel 1997 i progettisti devono prendere una decisione cruciale. Come far sì che la loro megastruttura si distingua nell'affollato panorama della Strip? L'antico Egitto, New York e Parigi sono idee già sfruttate. Serve un tema che renda riconoscibile la struttura. Le proposte sono centinaia. Gli architetti e i progettisti compilano una lista delle principali città del mondo. Ma scegliere la città giusta non è facile. Sarà una persona vicina a Edelson a decidere. Mia moglie vide i nomi che stavamo considerando e disse: perché non usi Venezia? La coppia aveva visitato Venezia durante la luna di miele e Miriam si era innamorata della città. Pensavo alle tante generazioni che avevano vissuto in quella città. Ne sentivo la storia. Tutto era così pittoresco e romantico. Edelson decide che riproducendo Venezia, il suo casinò si distinguerà da tutti quelli presenti sulla Strip. Nel mezzo del deserto del Nevada, tenterà di ricreare un'antica città costruita sull'acqua. Non sarà facile. La difficoltà maggiore era cogliere l'atmosfera di una città e riprodurla in un'altra città. La soluzione è realizzare una versione di Venezia con caratteristiche tipiche di Las Vegas, aggiungendo al romanticismo divertimento e lusso. E ovviamente farlo a tempi di record. Inaugurato quasi 12 anni fa, nel maggio 1999, il Venetian è alto 145 metri, ha 40 piani, più di 4.000 suite, oltre 4.000 camere d'albergo e un casinò da 11.000 metri quadrati. Quello che distingue questo gigante dagli altri casinò sono i canali che tentano di riprodurre quelli di Venezia, veri canali con acqua e gondole che trasportano migliaia di turisti ogni anno in una Venezia finta e immersa nell'aria condizionata del Venetian. Le scadenze sono ravvicinate, perché i casinò di Las Vegas producono più reddito per metro quadro di qualsiasi altro luogo sulla Terra. Quando il Mirage aprì nel 1989, avrebbe dovuto guadagnare $1 milione al giorno per pagare il mutuo di 7 anni acceso per costruirlo. Ma ebbe un successo tale che il mutuo fu estinto in soli 18 mesi. Finché l'area dove sorgeva il Sands rimane vuota, ogni settimana che passa è una perdita enorme di reddito potenziale. Edelson afferma che la sua megastruttura si estenderà per 930.000 metri quadri e avrà un casinò, un albergo e un enorme centro congressi. Alla fine, l'intera struttura sarà 2 volte più grande del Pentagono di Washington. Edelson scommette miliardi di dollari sul successo del Venetian. Ma gli ingegneri e gli architetti che devono realizzare quel sogno hanno di fronte un compito immane. Come faranno a riprodurre una delle città più famose del mondo? Come possono ricreare in mezzo al deserto una delle uniche città del mondo con i canali al posto delle strade? Qualcuno diceva che era un'impresa impossibile, ma ora il Venetian è una realtà. Dopo aver scavato nel duro terreno desertico, commissionato migliaia di statue, costruito repliche delle gondole veneziane, eretto una struttura sopra un garage, è stata creata una megastruttura che non ha eguali sulla strip di Las Vegas. O meglio, nel resto del mondo. Beh, come avete sentito e come abbiamo detto, esiste un altro Venetian che si trova a Macao, una struttura incredibile se non altro perché anche a Macao, come del resto a Las Vegas, ci sono proprio i gondolieri con le gondole, che sono in realtà gondole finte a motore, sono anche un po' ridicole, che portano in giro turisti, dubito che siano italiani. Adesso alcune notizie. Sony ha presentato a Tokyo la nuova PlayStation portatile in vendita per il prossimo Natale. Per ora non c'è ancora un prezzo e nemmeno un nome ufficiale, visto che l'azienda continua a usare il nome in codice NGP, Next Generation Portable. Sarà una console molto potente con processore e scheda grafica, entrambi quad-core. Avrà un grande schermo OLED touchscreen da 5 pollici, ma anche il retro, questa è una novità interessante, sarà sensibile al tocco. Si potrà collegare a reti Wi-Fi o 3G per navigare in internet, scaricare giochi, giocare online, oppure tramite GPS sapere a che cosa stanno giocando, ad esempio i nostri vicini. Sony ha anche annunciato la nascita di PlayStation Suite, un portale per mettere a disposizione i giochi della PlayStation anche per i dispositivi Android con il nuovo Xperia Play, il primo smartphone PlayStation Certified, quindi certificato per la PlayStation, che Sony Ericsson presenterà al Mobile World Congress a febbraio. La nuova PlayStation se la dovrà vedere sul mercato con la Nintendo 3DS, con schermo capace di riprodurre immagini tridimensionali senza occhialini, e in arrivo in Europa il 25 marzo. Ma nel mercato dei videogames portatili vanno oramai considerati anche gli smartphone di nuova generazione come iPhone. Digital News. Per il lancio della nuova Ferrari di Formula 1, la F-150, ieri il sito web del Cavallino ha registrato, pensate, 2 milioni di accessi da 149 paesi diversi nel mondo. Il numero di utenti della rete internet ha superato per la prima volta i 2 miliardi, il dato è fornito dall'ITU, l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa delle telecomunicazioni, i cui ricercatori prevedono il raddoppio degli utenti internet entro i prossimi 5 anni, e questo grazie alla diffusione della banda larga mobile. È tutto per questa puntata di 2024, che troverete anche su internet al nostro indirizzo, ci sarà il podcast tra pochi minuti. Ringrazio Paolo Corleoni in regia per la parte tecnica, Viola Bottoni e Giorgio De Luca in redazione. Grazie a tutti per l'ascolto, io sono Enrico Pagliarini, tra poco il GR, poi Carlo Genta, noi ci risentiamo online oppure sabato prossimo 15:30. 2024.